Ben ritrovato Michele Villari. Ciao, buonasera. Come va, Michele? Bene, grazie. Allora, con te, che sei l'autore del libro L'hip hop come conseguenza del jazz, che sarà presentato al Mondadori Bookstore qui a Roma il prossimo 3 marzo. Michele, intanto ci racconti un po' di questo, ce lo racconti un po' in sintesi, ce lo presenti? Allora, diciamo che la mia passione, che sai benissimo, insomma, il lavoro che faccio, quindi la mia passione per la musica afroamericana, fondamentalmente per il jazz, mi ha portato, insomma, a fare delle ricerche un po' più profonde su tutta la storia degli afroamericani e quindi a vedere l'hip hop, quindi la musica rap e tutto quel movimento culturale lì, come una. Appunto, come dice il libro, conseguenza, come figlio della musica jazz, no? È un filone, insomma, di una musica afroamericana, la storia della musica afroamericana fondamentalmente, che parte dal blues e per ora è arrivata ad approdare nel rap, no? Passando per il rhythm and blues, per il funky di James Brown, eccetera, eccetera. Senti, tu che sei un musicista e suoni il jazz, l'hip hop, ti piace, lo pratichi? Allora, mi piace tantissimo, mi piace molto, sì, il rap, lo pratico poco perché poi la mia passione grossa è snocciolare note su accordi stravaganti, insomma, fondamentalmente. Però l'idea e il movimento che c'è dietro l'hip hop lo trovo molto simile all'idea del movimento che c'è dietro il jazz, cioè quel jazz che come me lo vivo io, fondamentalmente, una musica di rivolta, una musica di passione, di espressione. E quindi lo sento, sento che sono molto vicine, insomma, come espressione culturale. Ovvio, l'una ha una strumentazione tradizionale, sassofono, il contrabbasso, il pianoforte, eccetera, eccetera. L'altro, l'hip hop, ha una strumentazione più moderna e parte dal giradischi, oggi addirittura sintetizzatori e computer, insomma, fondamentalmente. Michele, la prima immagine che mi è venuta in mente, il primo pensiero, a partire dal tuo titolo, è stata l'esperienza degli Astrii con la Blue Note, che è stato un punto di incontro tra i due generi. Ma anche prima, ancora prima, Miles Davis Sì. era cimentato in questo. Miles Davis si è cimentato in tutta la musica afroamericana Sì. e quanto più. Però anche lui con l'album Doo Wop anni prima aveva già preceduto questo movimento che poi gli Astrii hanno portato al successo. Che tra l'altro gli Astrii citano, c'è cioè un brano di Herbie Hancock, no? Sì. Quindi sì, fondamentalmente. Quello che è interessante è la parola parlata, cioè la voce, no? Che parla sulla musica e che ricorda, come cito un po' nel libro, Cat Calloway o anche il modo di cantare e di esprimersi di Dizzy Gillespie negli anni 50, che è un modo che scandisce di più la parola Sì. piuttosto che la melodia, insomma. Senti Michele, per questa ricerca dove sei andato a guardare? Allora, per questa ricerca sono andato a guardare dentro di me. Uno. No, poi fondamentalmente ho una serie di saggi, dalla storia del jazz di Enrico Poli, di Enrico Polillo a grandi saggi sull'hip hop. Cito Giuseppe Unet Pipitone, che è un grande storico dell'hip hop, Amiri Baraka, che è Lil Jones, il popolo del blues. George Bateman, che ha scritto la biografia di Malcolm X, anche che nel saggio cito anche i film che hanno rappresentato la storia afroamericana degli anni 70 a New York. Per esempio, una cosa interessante, cito Serpico, il film di Serpico, perché è il primo lungometraggio dove si parla del Bronx. Ancora prima dei Guerrieri della Notte, eccetera, eccetera, dove si parla di un Bronx reale, no? Ed il rap nasce lì. Quindi, insomma, diciamo, le mie fonti sono state molteplici, dalla cinematografia alla letteratura e soprattutto la discografia. Senti, rispetto, ecco, per chi ci ascolta, soprattutto per dare qualche punto di riferimento, che periodo diamo per la nascita del jazz, più o meno, e quello dell'hip Allora, il jazz è un po' hop? difficile perché già le radici si vedono nel primo novecento. Comunque, diciamo dal 1920 abbiamo già una New Orleans che pullula di Sì, sì. sì. Per l'hip hop, alla fine degli anni 60, inizio degli anni 70, sicuramente a New York. In Italia arriva molto tardi, tra gli anni 80 e gli anni 90. Tra l'altro, nel libro cito anche una grande fonte di pulsione rap, che è stata Radio Onda Rossa stessa, con gli Onda Rossa Posse, Sì, che era un sì. movimento che prediligeva la musica rap. Questo perché in Italia è venuta molto tardi? Perché la parola politica, con gli anni di piombo, era stata esclusa dalle canzoni. Quindi negli anni 80 la parola politica rientra, senza più quel terrore di movimentare un terrorismo di destra o di sinistra, o comunque un terrorismo armato, ma insomma, la parola diventa di per sé arma per combattere, insomma, il sistema. Senti Michele, che scoperte, quali sono le scoperte più, quelle che ti hanno più incuriosito, che non ti aspettavi e ti hanno sorpreso facendo questa ricerca? Allora, fondamentalmente, appunto, il fatto che già esistevano cantanti che sillabavano in modo ritmico la canzone, questo qua mi ha colpito molto. E poi tutto il parallelismo che ho scritto fra le due musiche, comunque sia nel jazz che nel rap la base fondamentale è il ritmo, proprio il ritmo, sia nella batteria del jazz sia nelle drum and bass dell'hip hop. Questo insomma mi ha Sì. colpito particolarmente, dove appunto c'è un filone conduttore sempre, ecco, questo è stato. Senti, c'è stato un periodo tra i due generi, chiamiamoli così, in cui si sono frequentati di più, e com'è adesso invece la situazione? Allora, devo dire che negli anni 80 c'è stato un grande scambio, appunto ho citato Miles Davis, ma Bedford Marsalis, il fratello di Wynton, insomma, ha fatto altri, ho anche Steve Coleman, che è un musicista che mi piace molto, sassofonista, ha frequentato molto l'ambiente rap e quindi hanno fatto dei dischi misti. Herbie Hancock anche è stato uno che si è cimentato su questo genere qua. Oggi com'è? Diciamo che un po' si è ritornati a separare le due musiche, però c'è un Kendrick Lamar che a me piace molto, dove nella sua, che è un rapper, nella sua musica si sentono influenze molto jazzistiche. Le armonie che usa sono tipicamente di jazz e non di musica funk come si usavano in precedenza. Quindi c'è qualcuno che continua comunque a portare avanti questo discorso. Senti, come hai strutturato il libro? Ah, il libro è strutturato, è un saggio, un piccolo saggio, ed è strutturato in 7 capitoli fondamentalmente, dove nel primo si spiega che cos'è l'hip hop. Ho tralasciato di spiegare che cos'è il jazz, anche se nel secondo capitolo c'è un'America degli anni 50 e 60, dove insomma, si cita il jazz e dove in questo periodo nasce la cultura hip hop. Poi c'è una sezione dedicata all'Italia, una sezione dedicata al parallelismo fra il jazz e l'hip hop, quindi si entra nel vivo della materia, cioè cosa hanno in comune e cosa no. E a parte la pittura, che nel jazz non c'è, tutto il resto delle musiche hanno in comune: ballerini, nel jazz si chiamano lindy hop, nell'hip hop breakdance, e poi va bene, gli strumenti che suonano. C'è una parte dedicata molto al, che non ti do dato potere alla parola, da una canzone di Frankie Energy, che è dedicato molto alla poesia, perché la letteratura e la cultura afroamericana ha una storia sulla poesia e sulla narrazione proprio afroamericane, e una parte di fusione fra le due musiche. Io ho citato tre autori importanti: The Clown di Charlie Mingus, The Pop di John Coltrane e Sentire Dio Marsosa. E poi va bene la discografia, la filmografia e la bibliografia, insomma. Bene, Sono Michele. sette capitoli 7 capitoli, sì. Quindi anche con una discografia di riferimento. Sì. anche una discografia di riferimento. Allora, praticamente sarà questa del 3 marzo a Roma l'uscita pubblica ufficiale, la prima presentazione. La prima presentazione al Mondatori di Via del Pellegrino, e poi speriamo di farne altre, speriamo che la cosa vada, insomma, non è un saggio, quindi non mi auguro, cioè non prevedo un pubblico da mozza, però mi farebbe piacere, insomma, se gli intenditori o anche gli appassionati del genere. È un libro che si legge, non c'è niente di troppo aulico accademico, insomma, quindi non c'è bisogno di conoscere la musica per poter leggere la storia afroamericana, Bello. fondamentalmente. Senti, ci dai dei riferimenti internet per i dettagli? C'è una pagina Facebook, un sito internet per il libro o per la tua attività? Sì, il libro lo sì. Allora, innanzitutto è Michele Villari, sulla mia pagina Facebook, e lì si possono trovare anche mie pubblicazioni discografiche. E poi, vabbè, il libro, insomma, verrà venduto online, forse anche alla libreria Raponi. Spero. Comunque, no, nel senso, si troverà un po' di librerie, un po' da Mondadori, eccetera, eccetera. Sì, su col Facebook, diciamo che copro un po' tutto gli eventi, le cose, insomma, sembra la pagina più facile che si possa avere in Senti questo Michele, in chiusura i tuoi prossimi impegni musicali che possiamo già segnalare? momento. Allora, il giorno prima farò un omaggio al cool jazz, quindi il bianco questa volta, che è jazz di Los Angeles al Black Market di Roma, e il giorno dopo del 3, quindi il 4, quindi il 2 farò un omaggio al Cugese, e il 4 farò un omaggio invece a un altro grande sassofonista, Paul Desmond, sempre al Black Market di Roma. Invece impegni di incisioni? Impegni di incisione per il momento, non posso dirlo, Non posso dire. non posso dirlo, sono scaramantico. C'è un Bene, bene. lavoro che sto facendo che, se molto importante, se va in porto ci risentiamo. Insomma, dovrebbe andare in porto, però per scaramanzia non dico Ci niente. risentiamo più in là. Ci sentiamo più là. Michele, io ti abbraccio e ci diamo appuntamento per il 3. Grazie, Federico, a presto, A presto. ciao a tutti.